Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insalgante e traghettatore, ben trovati. Oggi parliamo di libri, due libri un po' speciali per la verità. Il primo lo introduciamo anche con una notizia: esiste un forum dislessia online, forum per i genitori che hanno figli dislessici, ma anche per chi si occupa, per esempio gli insegnanti e i tecnici di questa malattia. Scambi di esperienze, consigli e notizie. Il sito è dislessia.org. E di questa malattia parliamo con Alessandra Perotti. Ciao Alessandra. Ciao, buongiorno a tutti. Che ha scritto un libro proprio dedicato, un libro non dedicato ai bambini dislessici, ma un libro leggibile per i bambini dislessici. Ci incuriosisce molto. Cosa vuol dire leggibile per i bambini dislessici? Vuol dire che in questo libro abbiamo cercato di applicare le direttive che ci dava l'Associazione Italiana Dislessia, nel senso di usare degli accorgimenti quali l'uso della font, è una font particolare che si chiama Leggimi, e che per alcuni tratti più facilmente leggibile da chi ha problemi di dislessia nella lettura. Abbiamo usato accorgimenti nella scelta della carta, per esempio abbiamo usato una carta mai bianca perché riflette e quindi crea problemi, abbiamo usato le direttive che ci hanno dato in materia di grafica, di colore, abbiamo cercato di confezionare un libro che è per tutti, ma che è più facilmente leggibile da chi ha questo tipo di problemi. Ecco, adesso citiamo anche i contenuti di questo libro. Si chiama Mistero a Crooked City, quindi cos'è? Un giallo, Alessandra? Questo inaugura una collana e fa parte, l'abbiamo dedicato all'EMPA, vuol dire che una parte del ricavato andrà all'Ente Nazionale Protezione Animali, ed è un giallo per bambini, nel senso che ci sono, i protagonisti sono due cani che devono risolvere un mistero nella città, appunto, che si chiama Crooked City. Bene, come facciamo a trovare il libro? Volessimo, come speriamo molti volessero, acquistarlo? Dunque, la via più semplice è quella di richiederlo direttamente a noi nel nostro sito, che è www.edizioniastragalo.it. Presto sarà comunque reperibile nelle librerie delle principali città. Grazie Alessandra e complimenti. Grazie a voi. Chiudiamo con un'altra notizia di libri, vi avevamo già preannunciato. Questa volta il libro si chiama Linea di confine, ne parliamo con Marco Paracchini, che è l'autore. Ciao Marco. Ciao, grazie. Ecco, grazie a te. È un libro di storie e misteri che ha una missione no profit. Quali sono le storie e qual è la missione, Marco? Guarda, cercherò di essere molto celere. Esiste un gruppo che si chiama Coraggio Giappone, fondato da una donna giapponese residente in Italia che si chiama Morimi Kobayashi. A lei ho proposto già mesi or sono la possibilità di utilizzare questo testo per fare una raccolta fondi, questo dall'autunno in poi, che andrà a sostenere orfani del Sendai, quindi vittime, bambini colpiti dal disastro, dallo tsunami. Come puoi ben immaginare, ci sono da seguire delle norme giuridiche particolari, perché purtroppo anche a fronte di questi disastri nascono associazioni che definirei a delinquere, che speculano, certo. E quindi insomma sarà un processo molto molto lungo, insomma ci vorrà qualche mese. Ecco. Il libro, come dicevi tu, racconta di quattro storie misteri ed è per tutti. Ecco, comprando il tuo libro dove che cosa succede? Allora, il libro è acquistabile al momento via internet, penso tutti possano acquistarlo su ibs.it, se no come diceva Alessandra, si può acquistare direttamente sul sito della casa editrice e nelle principali città per ora del nord, okay. Italia viene... Ecco, col semplice acquisto del tuo libro una parte del ricavato della vendita andrà a questa associazione. Esatto, andrà a questa associazione che, ripeto, sarà gestita in maniera molto professionale e seria, però dal prossimo autunno, nel senso che per ora abbiamo messo le basi e ci sono appunto progetti al fine di, insomma, di presentare questo progetto e avere, perché no, l'attenzione di molte persone, si spera. Grazie Marco Paracchini, complimenti. Grazie per la tua iniziativa. Ringraziamo anche gli ascoltatori, ricordando ferribotto@radio24.it per le vostre segnalazioni. In redazione, come al solito, Anita Panizza, in regia Carmelo Lauricella. Alla prossima.